ovviamente passa al terzo file. Va bene, questa è la comunicazione multimediale del 20, quanti ne abbiamo? Del 27. Del 27 gennaio. Va bene, allora senti, prima di guardare le cose, subito guardiamo Luther Blissett e adesso vediamo che cosa troviamo, perché questi siti sono cambiati tutti. Quindi vabbè, io avrei anche potuto, ma ieri sera c'era, non so se hai visto che hanno arrestato 25 persone ieri. Tutto il giorno sono stato ieri sera, c'era una riunione, avevo il seminario su Foucault, eccetera, e non ho voluto fare un cazzo, vabbè, con calma li guardiamo, prima lo leggo. Allora, questo testo ce l'hai, scaricato, quindi lo puoi, diciamo, guardare. Allora, allora, salta la prefazione che è... Allora, si capisce cosa significa, quali sono gli intenti di questo libro, di questa cosa, ovviamente sino dalla sua introduzione. Adesso ti leggo due pagine, così sono. Allora, ciò che si tenterà di fare in questo libro è paradossale, esporremo nel modo più serio possibile la secca teoria, vabbè, no, questo è Carlotto Marino, ma insomma, la secca teoria di una prassi che non si limita ad essere sovversiva, ma crea anche piacere e divertimento. Detto in altri termini, rompere le scatole al sistema, divertendosi anche. Quindi si dà una serie di critiche della comunicazione politica tradizionale, dice che molto spesso anche i rivoluzionari hanno assorbito le stesse tecniche degli avversari di classe, insomma, che alla fine sono noiosi, eccetera, eccetera. Dice la politica radicale e la critica sociale di estrema sinistra hanno fama di voler portare avanti le proprie istanze di emancipazione principalmente tramite la spiegazione razionale e la divulgazione di un'unica verità. Gli autori dei testi qui raccolti non dispongono di alcuna verità simile, ragion per cui non possono ficcarla in testa ad altre persone di sinistra o a qualche miscredente. Con il concetto di comunicazione guerriglia vorremmo stimolare ad altre forme di confronto politico che appartengono già da molto tempo alla prassi dei gruppi di sinistra, ma che troppo spesso sono state sminuite come burle da non prendere sul serio, relegate ai margini del lavoro politico propriamente inteso. Questo manuale invece discute di tali forme dell'attività sovversiva, delle loro condizioni, possibilità e limiti. Poi dice, ci guarderemo bene dal riproporre storiche controversie, invece poi in realtà un po' però per una serie di cose le ripropongono, tra diverse correnti di pensiero, dal contrasto tra marxisti e anarchici, che è di vecchissima data, perché è data fino dai tempi della fondazione della prima internazionale del 1860 e rotti, in cui c'era una componente marxista con Marx ancora vivo e una componente anarchica con Bakunin, e già si litigavano all'epoca, fino a quelle tra critica all'eurocentrismo e fedeltà a valori universali. La questione dell'universalismo è ovvio che... Allora lui dice, loro dicono che non se ne vogliono occupare, in realtà di fondo però insomma, per il momento di comune accordo ci soffermeremo su un certo terreno della critica dei rapporti sociali. Va bene. La comunicazione guerriglia non fornisce un concetto teorico impermeabile né regole precise per la concreta elaborazione di una prassi di liberazione, essa risponde all'esigenza di ripensare contemporaneamente alle nostre diverse pratiche e alla critica della società supportata da una teoria, di fare riferimenti incrociati affinché i due modi di procedere, quello pratico, la critica pratica e l'analisi teorica, si stimolino a vicenda anziché contrapporsi l'uno all'altro. Va bene, e poi spiega un po' di... Nella ricerca di simili forme di intervento, gli autori si sono ispirati a persone, gruppi, movimenti che a loro volta si sono occupati di rapporti tra potere, parola e sovversione tra arte, tecnica, cultura e politica. Nell'immaginaria galleria dei precursori della comunicazione guerriglia si trovano antenati molto diversi tra loro, come l'internazionale situazionista, di cui abbiamo parlato già, il movimento del 77 in Italia, la Comune Eins, Comune 1 nella Repubblica Federale Tedesca, gli Hippies, movimento americano degli anni 60 della controcultura, i Culture Jammers, e i Billboard Bandits negli USA, i psicogeografi in Francia, Italia e Inghilterra, ma gli psicogeografi sono, come tu ben sai, una componente di situazionisti. Il confronto con tali gruppi, la discussione delle loro forme di azione e dei loro punti di vista politici non solo ha influenzato la prassi degli autori estendendola in più direzioni, ma ha anche condotto a riflessioni teoriche. Il risultato è la teorizzazione di principi, metodi e tecniche di comunicazione guerriglia in una parola un manuale, il cui scopo non è però esporre la forma canonica, ma piuttosto fare l'apologia della comunicazione guerriglia come forma di discussione politica. Quindi, insomma, il punto è che da tutti i punti, uno dei punti, da tutte queste esperienze diverse, magari non esce una vera e propria teoria unitaria della comunicazione guerriglia o comunque della, diciamo, di queste particolari modalità di comunicazione, diciamo, sovversiva, perché queste possono essere le più, diciamo, diverse. Però effettivamente poi dopo, però, fino dalle prime righe del libro, poi loro in realtà qualche cosa, una qualche specie di, diciamo, teoria la propongono. Allora, dopo che loro hanno analizzato un po' brevissimamente nelle prime pagine diciamo, le modalità che ci sono della comunicazione politica tradizionale, insomma, il modo di fare le assemblee, la presidenza, se uno si siede al tavolo, fa la presidenza, dà la parola agli altri, eccetera. E chiudono così, dice: in queste cerimonie gli intervenuti non sono sempre solo accessori della rappresentazione del potere. Ad un ricevimento nemmeno gli ospiti credono davvero di essere venuti per ascoltare con attenzione le illuminanti parole del padrone di casa. Gli stimati signori, imbevuti di dopo barba e con addosso completi Hugo Boss, e le stimatissime signore, avvolte nel loro migliore abito da sera altrettanto costosamente profumate, sanno certamente che si tratta di grammatica culturale, questo è il concetto che loro usano, grammatica culturale, di vedere ed essere visti, sfoggiare la medaglia del valore, la medaglia al valore, prendere e mantenere contatti e venire presentati a persone importanti. In breve, mettere in scena se stessi in questo determinato ambiente nel modo più vantaggioso possibile e farsi vedere in pubblico come beneficiari della commedia del potere. La partecipazione al rituale regolato dalla grammatica culturale permette al pubblico non solo l'autopersuasione, ma anche una limitata partecipazione ai rapporti di potere. Va bene, qua dietro sarebbe forse stato più utile per questi autori riferirsi alle analisi di Foucault, che invece qua non viene praticamente mai citato. Poi si parla un po' di... Che cos'è la grammatica culturale? La metafora grammatica culturale viene dalla linguistica. La grammatica è il sistema di regole posto alla base della lingua, che apprendiamo senza esserne consapevoli. Essa è la struttura che determina la concatenazione e l'utilizzo dei singoli elementi dei predicati linguistici. Cioè, nella lingua c'è la grammatica, ci sono delle regole che anche se io non conosco, anche se io non sono cosciente di applicarle, in realtà quando parlo applico le regole di questa grammatica, no? Della lingua. Senza la grammatica non si possono esprimere nessi complessi, anche se ben poche persone riflettono parlando nella propria lingua sugli elementi delle frasi e delle comunicazioni. Rispettare le regole grammaticali è in linea di massima normale e raramente ci si interroga sui loro fondamenti. Loro tentano di estendere questa idea di grammatica più in generale, al di là della lingua, ai rapporti culturali, alla questione della cultura. Con l'espressione grammatica culturale indichiamo il sistema di regole che struttura i rapporti e le interazioni sociali. Quindi è ovvio che la cultura è un elemento della società. Quindi esso cosa? Vedi che tra l'altro, ma esso sistema di regole, sì. Questo sistema di regole racchiude la totalità dei codici estetici e delle regole di comportamento che determinano il fenotipo degli oggetti, quello ritenuto socialmente conforme e il normale corso delle situazioni. Fenotipo lo capiamo? Fenotipo lo capiamo o no? No. Allora, fenotipo è un concetto della biologia ed è contrapposto a genotipo. Il genotipo è quello più universale, cioè l'insieme delle caratteristiche genetiche di un individuo. Ovviamente il genotipo è più o meno uguale o molto simile per tutti gli individui appartenenti a una certa specie. Quindi il genotipo è ciò che accomuna, è ciò che è comune, diciamo, agli individui che fanno parte di una stessa specie. Il fenotipo è la realizzazione individuale del genotipo, cioè il modo in cui il genotipo produce due esseri umani così diversi come Grazia e Antonio, per esempio. No? Noi siamo due fenotipi diversi, evidentemente le bidelle e la fuori sono ancora più diverse, mentre però il genotipo è, perché siamo tutti Homo sapiens, quindi più o meno. Alcuni, tu dici, non si meritano questa, però insomma siamo tutti Homo sapiens. Allora, quindi le regole del comportamento che determinano il fenotipo degli oggetti, quello ritenuto socialmente conforme, cioè il fenotipo però si deve in qualche maniera, come dire, conformare al genotipo. La grammatica culturale ordina gli innumerevoli rituali che si ripetono ogni giorno a tutti i livelli di una società e comprende anche le divisioni sociali dello spazio e del tempo che determinano le forme di movimento e le possibilità di comunicazione. Nonostante la sua rigida codificazione, la grammatica non viene mai fissata definitivamente, qua intende sia la grammatica linguistica che quella culturale. Nella lingua scritta entrano convenzioni correntemente usate nella lingua parlata di tutti i giorni, i gerghi delle subculture diventano accettabili e la grammatica propria dei dialetti si adatta alla lingua colta. Analogamente si modifica anche la grammatica culturale. Accanto al galateo della buona condotta, nella vita privata come nello spazio pubblico, esistono forme di autorappresentazione subculturali o tipiche di determinate classi che si influenzano reciprocamente. Come i modi di parlare poi si differenziano, no? Nei singoli tipi, nei singoli gruppi sociali, eh? E quindi poi a seconda delle situazioni in cui tu sei, insomma, in una lezione si parla in un certo modo, al bar con gli amici si parla in un altro modo, in discoteca si parla in un altro modo, in discoteca non si parla perché non si sente un tubo, c'è la musica fortissima, ma insomma comunque nei vari posti si parla. Queste sono tutte, chiamiamole tutte subculture, cioè delle, senza, non è un termine, diciamo, dispregiativo, ma sono delle sottoculture, delle situazioni, nonostante la sua flessibilità, il ruolo normativo della grammatica nella lingua non è in alcun modo neutrale, modificabile, accessibile, apprendibile, né utilizzabile da tutti. La grammatica culturale, espressione delle relazioni sociali di potere e di comando. Le sue regole giocano un ruolo importante nella produzione e riproduzione di queste ultime. Va bene, poi spiega un attimo il significato secondo Barthes, va bene, insomma. Allora, siccome il succo di questa cosa è che siccome questa grammatica culturale è, come dire, serve in qualche maniera per rendere visibili e poi riprodurre e poi rafforzare le relazioni sociali tra i diversi gruppi, i quali ovviamente si basano su una ineguale distribuzione del potere e quindi sul fatto che alcuni gruppi sociali esercitano un comando su altri gruppi, cioè gli dicono quello che bisogna fare o stabiliscono loro quello che bisogna fare, l'idea della comunicazione guerriglia di fondo è quella di mettere in crisi, diciamo, sabotare, rendere difficili i rapporti di potere stabiliti, tradizionali, non criticandone direttamente, cioè, non convincendo la gente che il potere è sbagliato, eccetera, eccetera, ma modificando la grammatica culturale. Quindi io, diciamo, attraverso le modificazioni dei comportamenti della grammatica culturale, quindi dei codici, del tipo di rapporto tra immagini, parole che ci sono, eccetera, eccetera, attraverso questo far capire quanto possano essere relativi, no? Quindi non fondati su un criterio assoluto, queste abitudini, diciamo, di potere, insomma, no? E quindi in questo modo indurre, stimolare in chi assiste a questi episodi di contestazione o di rovesciamento della grammatica culturale, l'idea che questi rapporti possano essere messi in discussione e che si possano avere rapporti diversi, non soltanto sul piano evidentemente della grammatica culturale, evidentemente, ma a questo punto anche dei rapporti sociali più di fondo. Allora, la critica di fondo di tutte queste cose, qui non lo dice, questo te lo dico io, lo aggiungo io, in realtà è un'operazione che aveva già, che ha degli illustri antenati anche nella filosofia. E nella filosofia, probabilmente il personaggio che, non dico il primo, ma insomma uno dei primi che ha contribuito a mettere a nudo, cioè a destrutturare, a non dico rendere ridicole, ma insomma a mettere in discussione alcune delle nostre categorie concettuali più acquisite, è stato un signore inglese vissuto nel XVIII secolo che si chiamava David Hume. David Hume, in genere nelle storie della filosofia, Hume scritto H-U-M-E, può essere Hume perché in inglese, David Hume, Hume. David, senza la finale, David Hume. Allora, Hume ha scritto vari libri, ma insomma, il suo più importante si chiama Trattato sulla natura umana, Treatise on Human Nature, che è uscito in 3 volumi a varie, diciamo, riprese. Questo è il libro più importante suo. Hume viene in genere presentato nelle storie della filosofia, eccetera, non è del tutto sbagliato, ma insomma come un empirista, quindi come uno di quelli che dicono sì, certo, la posizione empirista classica è quella, la conoscenza si basa soprattutto sui sensi, su ciò che noi percepiamo con i sensi, tutto quello che viene dopo, i ragionamenti, le categorie, non sono altro che una astrazione da questi dati concettuali. Ora, questo è vero, però mentre gli altri, diciamo i due altri personaggi più importanti dell'empirismo inglese, di poco, lui è praticamente l'ultimo dei tre, sono tre gli empiristi, uno è Locke, l'altro è Berkeley, poi c'è più un Locke, si scrive L-O-C-K-E, Locke che è uno dei... Nel terzo si chiama Berkeley come la cittadina americana, era un vescovo, dunque, aspetta, non so se c'è una E tra la K e la L, sinceramente, non so, mi sembra di sì, Berkeley, sì, Berkeley. Allora, mentre questi due però si sono realmente limitati, ma non hanno avuto la radicalità della critica di Hume. Hume fa una critica in questo libro, in questo libro, soprattutto nel Trattato sulla natura umana, fa una critica radicale al modo di pensare, eccetera, degli uomini. E che cosa dimostra praticamente? Sono cosa certa di dimostrare che tutte queste categorie che noi pensiamo siano concettuali, siano così ben fondate, no? Il modo in cui noi ragioniamo, il nostro intelletto, eccetera. Per esempio, per dirne una di quelle che lui ha, il principio di causalità, no? Causalità. Cioè qualsiasi cosa succeda nella vita deve avere una causa. Se esiste questo registratore, eccetera, è perché qualcuno lo ha fabbricato, quindi c'è una causa. Aristotele è stato il primo nella storia della filosofia, quindi 4 secoli prima di Cristo, che aveva organizzato questa cosa, la causa, e il principio di causalità è sempre stato considerato come uno dei principi che organizzano il modo di pensare degli esseri umani, quindi il modo di ragionare, il loro rapporto con il mondo, ma poi da qui dicono bene, dice allora vuol dire che siccome noi ragioniamo in base al principio di causalità, vuol dire che il mondo è costruito secondo il principio di causalità. Hume dimostra che questo passaggio è totalmente arbitrario, che non è affatto detto che il mondo sia davvero casuale per il fatto che noi pensiamo con il principio di causalità. E siccome l'idea, di Hume è che tutte le nostre idee, tutti i nostri concetti, tutte le nostre cose non siano altro che delle impressioni che abbiamo avuto da oggetti esterni, quindi da parte della nostra esperienza sensoriale, sono i sensi che hanno, no? Poi noi su questi sensi abbiamo costruito, ci sono delle cose che vediamo tutti i giorni, o che facciamo tutti i giorni, o che vediamo che si ripetono, dice bene, allora da questi Se io vedo tutti i giorni una persona che vede un mendicante all'angolo di una strada e gli dà diciamo mezzo euro, poi vede una signora in difficoltà e le fa attraversare la strada, poi vede i bambini, li bacia, eccetera, e fa, ah, questa persona è buona, eccetera, e a un certo punto mi faccio l'idea che ci sia qualcosa chiamata bontà, no? No, in realtà dice Hume, esisterà davvero questa bontà? Sono io che ragiono, è la mia mente che ricava un'astrazione, ma la bontà in quanto tale, chi l'ha mai vista? La bontà, cioè chissà cos'è la bontà, è un modo di pensare degli esseri umani applicato a queste cose, ma in realtà l'unica cosa reale di cui io posso dire è c'è una persona che si comporta così e così, faccio una descrizione, dico questo, va bene, questo decido di chiamarlo buono, ok, fatti miei, insomma, allora, idem la causa ed effetto. Io ho davvero delle garanzie che una certa cosa sia la causa di qualche altra cosa? No, non ho nessuna garanzia. Semplicemente sono io che vedo, ogni volta vedo, come dire, un avvenimento che si verifica in concomitanza con un altro, no? Tipo, per esempio, c'è un fuoco acceso, ogni volta che un bambino avvicina troppo la manina al fuoco, caccia un urlo, gli viene male alla mano, si scotta, la pelle si arrossa, eccetera. Benissimo. Allora io dico, il fuoco è la causa del dolore di questo, come dire, bambino. In realtà posso, vabbè, io posso ragionare così, certo, posso ragionare così, però che dal punto di vista realmente, cioè, c'è nell'essenza delle cose una qualche. Il fuoco è la causa della rotatura. È il bambino che ha messo la Al canna, bambino che ha messo la cosa, no? ma comunque sia, insomma, c'è una regolarità. Io vedo che ogni volta che dico così, poi mi capita che trovo uno e vedo che ha la pelle così, che ne so, capito, così dura, eccetera, che avvicina la mano e non gli capita nulla. E allora come diavolo insomma, mi succede? Quindi, diciamo, anche il principio di causa ed effetto non è altro che il risultato di una abitudine degli esseri umani a vedere delle cose. Quindi, Quindi sono diciamo, sempre astrazioni in base a quello che astrazioni in vedo. base a delle ragioni, però queste astrazioni funzionano, lui dice usiamolo benissimo, non è che dice che non si deve più usare, dice però non attribuiamogli più senso di quello che ha, cioè non ha nessun senso dire l'universo si basa su una regolare catena di cause e di effetti, cioè lui non dice proprio così, ma insomma io commento dicendo l'universo non si basa su niente, l'universo è privo di senso, siamo noi che diamo un senso con la nostra cosa perché ordiniamo le cose. Allora dico questo perché in realtà quello che loro propongono qua è un qualcosa di analogo, cioè mostrare che la gran parte dei rapporti sociali non hanno un fondamento, diciamo, le signore impellicciate e ingioielliate che vanno ai ricevimenti, eccetera, eccetera, non è che hanno né un diritto di nascita né un diritto, ovviamente hanno più soldi degli altri, fanno delle cose, ma non è che c'è un fondamento reale di questi rapporti sociali, di questi rapporti di dominio, eccetera. E quindi questi rapporti, in particolari condizioni, possono essere rovesciati. Tutta la comunicazione guerriglia non mira ad altro che a questo, cioè a mostrare che diciamo, le relazioni tra gli esseri umani sono relazioni che si basano su rapporti di forza, su rapporti di potere reali, certo, che possono essere registrati, ma questi rapporti non hanno alcuna. Facciamo un altro piccolo excursus. Quando si è fondato lo Stato moderno, fra il fine del 500, 600 e 700, si è fondato secondo due principi diversi ma simili però, no? La forma democratica, la forma monarchica e la forma repubblicana, diciamo, no? La forma repubblicana che noi in genere intendiamo per democrazia. Ora, in realtà diciamo, il personaggio che ha teorizzato meglio questo genere di cose all'inizio nel 600 è un altro inglese, è questo signore che si chiama Thomas Hobbes, o HBBS, okay, che ha scritto un libro chiamato Il Leviatano. Allora, ci è sembrato un grande passo avanti, o la ragione, ah no, ma il potere deve essere distribuito, soprattutto il popolo è sovrano, non una singola persona è sovrana, la sovranità bisogna. In realtà non c'è così tanta differenza tra un potere monarchico e un potere repubblicano. Si tratta sempre di stabilire che qualcuno, che poi sia uno o che sia un gruppo più ristretto di persone, che sia un re o che sia un Parlamento, cosa cambia? È sempre il Parlamento l'ho votato io, va bene, ma l'abbiamo votato, mo stanno lì, cioè, va bene, gli abbiamo dato una legittimazione perché noi abbiamo l'esercizio di questa sovranità, cioè di questo potere sovrano, fare le leggi, dire come le singole persone devono comportarsi, è una pratica di dominio, di sottomissione degli altri, tanto che ci sia un re quanto che ci sia una repubblica. È la forma dello Stato in quanto tale che va. E questa forma dello Stato non ha alcuna legittimazione, non ha alcuna causa ideale perché l'ordine delle cose è così, è una causa di rapporti di forza. In Inghilterra prima c'era un re, poi c'è stato il Parlamento, per esempio, poi hanno tagliato la testa ad un re, hanno fatto 30 anni senza Parlamento e poi si sono messi d'accordo, va bene, facciamo il re e il Parlamento insieme, il re sta lì sopra per fare nulla. In Francia un secolo dopo hanno tagliato la testa al re, poi il re non l'ha. Poi sono poi tornati i re per poco tempo, però insomma dal 1930 in poi non c'è stato nessun re. Poi, la Francia è un paese che ha avuto per tutto l'Ottocento delle ricorrenti tentazioni monarchiche, perché c'è stato prima la monarchia, prima i Borboni restaurati dopo il Congresso di Vienna 1815, poi la crisi della rivoluzione del 1830 e viene fuori un altro re che è Filippo d'Orléans, Filippo cosiddetto Égalité, amico dei rivoluzionari ma sempre re, e va bene, poi fanno fuori pure lui, nel 48 fanno finalmente la seconda repubblica, eccetera, poi nel 1860 e Rozzi arriva Napoleone III, il nipote del vecchio Napoleone, quindi vedi che ogni tanto si alternano monarchia, repubblica, altri sono repubblicani da sempre, in Russia c'è stato lo zar fino al 17, poi c'è stato questo cosiddetto regime comunista, che in realtà comunista non era di nulla, ma il principio dello Stato non è mai stato messo in discussione, è il principio dello Stato probabilmente che va messo in discussione, che va criticato, di cui va mostrata il principio dello Stato e quindi il principio della, come dire, di questa codificazione dei rapporti sociali, di questa impossibilità di cambiarli, di fare, i rapporti sociali sono quelli, bisogna essere così, perché sono razionalmente fondati, non sono fondati razionalmente su nulla, no? Allora, applicando la critica corrosiva di Hume al principio di causalità, non c'è nessun principio di causalità, c'è una successione di avvenimenti che io per abitudine vedo e do un nome a questa abitudine e la chiamo causa-effetto, ma è un nome che io do a questa abitudine, non c'è nulla di essenziale nei fenomeni che mi autorizza a, e così non c'è nulla di essenziale nei rapporti di potere che mi autorizza di il rapporto di potere deve essere così, c'è qualcuno che deve dirmi quello che io devo fare. La causalità di cui parla è un po' una concezione occidentale, perché quella perché in altri è vero, perché in altri orientali infatti loro sanno, certo. Lo so, però noi, tesoro caro, siamo qua nell'Occidente, cioè, quindi, poi possiamo amare l'Oriente come diavolo ci pare, ma il nostro modo di pensare, il nostro modo di parlare, cioè, è tutto imbevuto di questa cosa. Quindi è importante sapere chi ha fatto delle critiche a questi, chi ha messo in discussione queste. Vabbè, insomma, questo è per spiegarti un po' i fondamenti anche di questa. Ecco perché giustamente questi autori dicono, guardate che non sono solo delle burle, cioè non sottovalutiamo questi modi di fare la comunicazione guerriglia, cioè il mettere in ridicolo, eccetera, è un modo in realtà per criticare più profondamente, tu in qualche maniera critichi la società esistente più profondamente se la metti in ridicolo che non se ti metti in piedi sul tavolo e ti fai una bella spiegazione, cioè, guardate che sarebbe meglio fare, cioè sarebbe meglio, chissà che cosa sarebbe meglio, non lo sappiamo bene cosa sarebbe meglio, la cosa importante è che sappiamo che tutto quello che ci viene, o gran parte di quello che ci viene presentato come fondato, come naturale, come giusto di per sé, perché corrisponderebbe alla realtà delle cose, eccetera, eccetera, tutte queste sono truffe, tutte queste sono modi di pensare che servono semplicemente per tenere detto un po' brutalmente, per mantenere il culo al caldo di quelli che già ce l'hanno al caldo e per continuare a tenere al freddo quelli di quelli che ce l'hanno al freddo, mentre magari invece, perché così, ecco, questo adesso detto in maniera, insomma, ecco perché la contemporaneità è così importante, perché sì, ci si diverte anche, ma divertendosi, facendo queste cose ridicole, in realtà si mette in discussione più profondamente diciamo, l'essenzialità di questi rapporti di, diciamo, potere che non... Ed ecco quindi la grammatica culturale. Allora, la grammatica culturale può essere usata in modo creativo, può essere usata, e qui spiega come può essere usata e fa diversi esempi. Le azioni della collocazione guerriglia si rivolgono a temi di grande rilevanza sociale, lo spazio pubblico in cui si svolgono è già predisposto a determinate rappresentazioni e aspettative. Questa struttura della normalità può essere confusa, spiacciata o superata mediante un'azione inattesa. Anche uno sciopero, in qualche modo, anche un corteo, nelle prime volte in cui sono state sperimentate queste nuove lotte, erano una rottura della normalità, però poi a poco è diventata un'esperienza, c'è il corteo, sappiamo che... Ecco, allora, molte di queste forme, allora, criticano anche gli strumenti e le forme tradizionali dell'azione, della contestazione, no? Dell'azione di opposizione, insomma, e dicono, guardate che se noi continuiamo a fare le cose che ormai la gente c'è abituata, no? Bisogna trovare sempre dei modi, se 12 persone, adesso per dire una, insomma, fanno una gita in bicicletta nudi per le strade di Bologna, cosa che è successa, certo, poi vengono subito arrestati, fermati, eccetera, però intanto hai creato un qualche cosa. La critical mass, quando le azioni della critical mass fanno parte di questo tipo di cosa, è una cosa che nessuno, cioè non è che fanno un bel discorso di rabbia, bisognerebbe avere meno macchine, no. Dice, guardate ragazzi, andiamo tutti in bici, ci mettiamo in 100 persone in bici, 100 persone in bici creano un fatto. Che è molto più forte, sconvolgono le regole della grammatica culturale normale, le strade sono fatte per automobili, pensa, sia il possessore di automobili, sia quello come me che magari che non possiede l'automobile ma che è abituato, che vede sempre, a un certo punto vede qualcuno che nella pratica si è messo a fare qualcosa di diverso. Oh, la miseria, questa strada adesso è fatta per le bici, non è fatta per le automobili. Non arriva. Non so come. Guarda in alto. Arriva tutto quello. Va bene, insomma abbiamo spiegato più o meno questa cosa. Allora, negli anni 60, per dirla in breve, i gruppi che più teorizzavano e praticavano questo genere di cosa erano gli hippies. Non lo so, comunque mi passerà, non è che furono degli hippie, furono quelli che gli hippie tutta questa differenziazione nacque negli Stati Uniti principalmente, poi a poco nacque con un certo anticipo rispetto agli anni in cui arrivò in Europa. Noi la conoscemmo verso la fine degli anni 70, qua in Europa. Quando scoppia il 68, già in Italia, in Francia, anche in Germania c'erano i primi gruppi di persone che, e già ci fu una spaccatura tra l'ala, come dire, politica e l'ala che poi dopo è stata chiamata creativa, non un pessimo termine, insomma. Quindi quando poi questa cosa nel 77, cioè dopo quasi 10 anni, si amplifica in Italia principalmente, in questo caso in realtà riprende delle linee di divisione che c'erano già state all'interno del movimento, tra un'ala appunto, diciamo, tradizionalmente politica, questo anche negli Stati Uniti, diciamo, successo. Negli USA quest'ala più virgolette politica del movimento era rappresentata principalmente da un gruppo chiamato SDS, Students for the Democratic Society, che era l'ala virgolette politica, come sarebbe l'analogo di quello che poi sarebbero stati i gruppi dell'estrema sinistra tradizionali qua in Italia o in Francia, maoisti, trotskisti, eccetera, eccetera. Mentre gli hippies, a un certo punto gli hippies, come dire, alcuni hippies negli Stati Uniti già a metà degli anni 60 fondarono una specie di partito qua per ridicolizzare l'idea di partito, che era appunto il partito degli hippies, chiamato YIP, Youth International Party, Partito Internazionale della Gioventù, perché era ovviamente collegato più o meno con l'idea che diciamo, i giovani rappresentassero in qualche maniera, cioè in quegli anni, a metà degli anni 60, per la prima volta nella storia delle culture occidentali, i giovani prima di allora non erano mai stati nulla, cioè era un dato anagrafico, i giovani erano semplicemente persone che stavano diventando adulte. Quindi in quegli anni lì i giovani, quindi quelli che erano giovani, io ero già forse un po' più vecchiotto, ma insomma, però nel 68 avevo ancora 24 anni, quindi potevo considerarmi giovane, insomma. Ecco, noi siamo stati la prima generazione che siamo stati trattati, guardati anche dalla cultura ufficiale, come se fossimo una categoria a parte. Ed effettivamente noi lo siamo stati, cioè avevamo delle rivendicazioni che erano insieme politiche tradizionali, di classe, quindi contro la classe dominante, ma anche contro i nostri genitori, contro la classe di età. Cioè, ci eravamo stufati che i nostri genitori ci indicassero la via, ci dessero il modello delle cose da fare, eccetera, eccetera, e quindi insomma, diciamo, il 68 o i movimenti della metà degli anni 60 negli Stati Uniti sono stati realmente, hanno avuto una componente, non era l'unica, ma ci fu una componente generazionale, cioè in cui una generazione aveva dei comportamenti per il fatto di essere quella generazione, cioè per il fatto di avere un'età, diciamo, diversa. Nell'Ottocento non era così. I rivoluzionari dell'Ottocento, non importava che avessero 18, 25, 30, 40 anni, erano rivoluzionari in quanto tali, no? A un certo punto, in effetti i leader di questa, diciamo, di questa ala hippie, di questa tipo Abby Hoffman, Jerry Rubin, eccetera, eccetera, coniarono questo slogan che, preso alla lettera, evidentemente può sembrare stupido, ma insomma, dice: non fidarti di nessuno che abbia più di 30 anni. Questa era la cosa. Allora, chi era sotto i 30, obiettivamente, poi in realtà anche noi avevamo dei rapporti con delle persone che erano più grandi, eccetera, eccetera, eccetera, però è stata la prima volta che quella generazione prese in mano più o meno da sola il proprio, diciamo, destino, o si illude ovviamente di averlo preso in mano, che poi non è che, però in quegli anni in cui noi, insomma, praticavamo e la cosa importante era che era una pratica, cioè fai un'assemblea, occupi una facoltà, eccetera. Nell'occupazione non è solo che diciamo faccio l'occupazione per protestare contro qualche cosa, no, all'interno dell'occupazione maturano, siccome è una situazione diversa da quella, quindi non comandano più i professori, non comandano più i bidelli, non comandano più, cioè sei tu che hai preso in qualche maniera temporaneamente il potere dentro e gestisci il tuo potere, te lo gestisci collettivamente, quindi decidi insieme in assemblea le cose da fare, crei dei rapporti fra le singole persone dentro questa esperienza che sono qualitativamente diversi da quelli che ci sono nella vita, diciamo, normale. Poi certamente anche lì ti accorgi che a poco tendono a infiltrarsi, a riprodursi, a ricrearsi dei rapporti più come quelli, cioè più simili a quelli, diciamo, normali. Questo è un dato di fatto. Però c'è comunque una componente di messa in crisi, di messa in discussione, va bene. Il 77 in Italia è il momento in cui c'è una sorta di ribellione delle ultime generazioni del movimento, cioè di quelli che hanno 17, 18 anni, in quegli anni, 20 anni, in quell'anno lì, sono passati circa 10 anni dal 68, quelli che hanno fatto il 68, se avevano 18 anni nel 68, nel 77 ne hanno 27, 28, se ne avevano 20 ne hanno 29, se ne avevano 24 come me ne hanno 33, insomma, quindi c'era stato un certo cambiamento. Allora questi qua, questi nuovi, come dire, si arrabbiano e riscoprono molte delle cose che erano state il patrimonio degli hippies e di questi movimenti di controcultura che a un certo punto si erano, come dire, separati dalla componente politica, l'SDS, poi dopo l'SDS finisce male in America, semplicemente perché all'interno dell'SDS matura una piccola ala di tipo di lotta armata, insomma, l'hanno fatta anche negli USA, non soltanto in Germania, non soltanto in Italia, che sono gli weathermen, cioè gli uomini del tempo, weathermen, non del tempo, è una storia che... ci sono un paio di libri che ricostruiscono anche la storia di questo movimento, di questi, però diciamo in America le cose nel 69-70 sono già belle che è finite, nel 68 hanno, intanto nel 64 hanno assassinato Kennedy, poi subito dopo assassinato il fratello, poi nel 68 ammazzano Martin Luther King. Cioè, ne fanno fuori un tot nel 69-70 e poi questi qua, questo gruppo dell'SDS decide di fondare gli Weathermen e vengono scoperti dopo poco tempo, vengono dispersi, messi in galera, eccetera. Insomma, quindi come dire, il movimento negli USA all'inizio degli anni 70 è sì, poi ci sono ancora le ultime code a metà degli anni 70, i grandi movimenti, i grandi cortei contro la guerra del Vietnam. A un certo punto, quando Nixon, il presidente Nixon, preso dalla disperazione, decide di firmare la pace perché vede che gli ne crepano troppi dei suoi, insomma, nel Vietnam, e poi c'era la questione della televisione, cioè queste immagini del Vietnam andavano in televisione, la gente a casa, negli USA, vedeva queste cose qua, era una pessima propaganda per il governo, quindi insomma... È stato paradossalmente un governo di destra è stato un presidente di destra che ha firmato la pace con i comunisti vietnamiti, insomma, piuttosto che non né Kennedy né Johnson, dopo che erano tutti democratici, quindi apparentemente di sinistra. In realtà la differenza tra i democratici e i repubblicani non è affatto una differenza direttamente riportabile alla nostra, perché sinistra, c'è un'ala del Partito Democratico che è più terribile di quelle repubblicane, di quelli del sud, sono tutti razzisti, tutti erano, quindi figuriamoci. Però va bene, insomma, c'è questa roba quindi del 77 in Italia, anche poi per tutti gli anni 80 c'è un periodo più o meno in tutto il mondo, in tutta Europa, di chiamiamola stagnazione. O comunque di ripensamento, la gente si torna a casa, si lecca un po' le ferite, si mette a fare le cose, perché insomma ci siamo fatti del male un po' anche noi, quindi però all'inizio degli anni 90, primi anni 90 grosso modo, fino alla metà insomma, degli anni 90, però cominciano a sorgere dei movimenti, insomma, delle cose, non dei movimenti, non si può dire, non sono veramente come, sì, c'è qualche piccolo movimento studentesco, quello della Pantera, eccetera, la prima, dopo 10 anni in cui non è successo quasi nulla, ma più che dei movimenti sono degli episodi. L'episodio più rilevante da questo punto di vista, sempre in Italia, è quello dell'Ulster Bis. Allora, Luther Bliss è una storia, è un'esperienza che nasce a Bologna. Allora, che cosa, come dire, consiste questa? Consiste nel tentativo di tentare di rivitalizzare, di riportare in primo piano una pratica di critica, diciamo, dell'esistente, quindi di contestazione dei poteri esistenti, di rivelazione, che tenga conto però di quello che era già evidente fin dagli anni 60, ma negli anni 60 non ci era apparso ancora così importante, così strategico, cioè il ruolo dei mezzi di comunicazione, il ruolo dei media nella gestione, eccetera, di questo potere. E quindi Luther Bliss è un piccolo gruppo di persone, giovanissime all'epoca, hanno meno di 20 anni, insomma, stanno per compiere 20 anni più o meno, insomma. Non sono tanti, sono forse una decina di persone, hanno una piccola audience, insomma, però a Bologna principalmente. E tentano di ricostruire delle pratiche senza aspettare il dispositivo, la successione tradizionale della nascita dei movimenti. Tradizionalmente il gruppo, virgolette, d'avanguardia, il gruppo politico, il piccolo gruppo che aveva già le idee chiare, da che cosa si faceva? Faceva un lavoro, si diceva tradizionalmente, di propaganda. Stava in giro, dava dei volantini, guarda che le cose sono così, guardate che schifo, fate qualcosa, ribellatevi. Faceva qualche assemblea, cercava di allargare a poco il proprio coso, convincendo delle singole persone con le parole, quindi con dei discorsi. La pratica di Luther Blissett è totalmente diversa. Luther Blissett decide di fanno delle azioni, loro, direttamente. Erano tutti italiani? Tutti italiani, tutti, se non bolognesi, proprio di quella zona lì, insomma, intorno. Bologna, Ferrara, qualcuno, insomma, tutti italiani. Poi il nome si diffonde all'estero, ma parte dall'Italia, parte da Bologna. Poi in Italia c'erano due soli gruppi, poi dopo tanta gente ha preso il nome, insomma in quegli anni lì, negli anni 90, i due gruppi, l'unica altra città in cui ci sarà un certo tipo sarà Roma. A Roma un gruppo di persone anche più grosso di quello di Bologna, però meno coeso. Decide di dare vita a un gruppo chiamato, quindi a un nome collettivo chiamato Luther Bliss. Allora, che cosa fanno? Quindi cominciano facendo delle beffe mediatiche, adesso vedremo se ne trovo qualcuna su internet, e queste beffe mediatiche le firmano con un nome, con un nome che dicono è un nome collettivo. Quindi fino dall'inizio dicono questo è un falso, però teorizzano e lo rivendicano che sia, diciamo, un falso, e si fanno anche un'immagine finta e falsa, che in realtà, se tu conosci i Luther Blissett, sai benissimo a chi corrisponde questa falsa. Questa è praticamente hanno preso varie foto, però insomma praticamente questa è la trasformazione della faccia di quello che all'epoca era e ancora adesso è uno dei principali teorizzatori di quello, che si chiama Roberto Bui, ed è un ragazzo di Ferrara, era un ragazzo, adesso è già 40 anni, insomma, 40 e più, di Ferrara. Queste sono foto sue, dei suoi nonni, dei suoi genitori, poi di altri amici, tutte mescolate insieme, fate con un coso e esce questa fase, però chi conosceva, siccome io li ho visti nascere prima che fossero Luther Blissett, ho fatto un'intervista a questo Roberto Bui prima che avessero, l'anno prima che si trasformava, prima avevano un collettivo chiamato Transmaniacon, che è il titolo di un romanzo di fantascienza, una specie di proto-cyberpunk della fine degli anni 80. E allora avevano questo gruppo qua e già teorizzavano cose del genere. Poi dal 1992-93. I due libri principali che pubblicano in quegli anni sono, in cui c'è tutta più o meno la loro esperienza. E poi tutto questo è stato infilato dentro un sito che adesso vediamo se troviamo, che è l'archivio del loro, diciamo, progetto. Mind Invaders, come fottere i media, manuale di guerriglia e sabotaggio culturale, è del 95, esce per Castelvecchi, che è un editore un po' del cazzo, no, un po' così, insomma, di quelli, però è stato importante, c'è ancora adesso, ma non c'è più questo, il fondatore, che si chiamava appunto Alberto Castelvecchi, si chiama. E l'altro è dell'anno dopo, invece, è una casa editrice molto più seria questa, non c'è più adesso, si chiama AAA, di un paesino vicino a Udine, si chiama Bertiolo, il titolo del libro è Lutherblitz, Totò, Peppino e la guerra psichica. Questi sono dei materiali, più o meno come il Mind Invaders, però sono molti più materiali. Questi sono i due libri fondamentali. Poi dopo comincia una trasformazione di Lutherblitz, dura sì e no, diciamo dal 94 più o meno fino al 2000. Poi a un certo punto, insomma, questi qua, si capisce qual era la loro vera, insomma, vera, era gente che volevano comunque utilizzare anche strumenti più tradizionali diciamo di comunicazione e non soltanto politica, insomma scrivono un romanzo, non tutti quelli del Lutherblitz, però insomma le quattro persone che erano più, quindi Roberto Bui, Giovanni Cattabriga e gli altri testo, insomma, i nomi si trovano, per un po' i nomi non sono stati pubblici, insomma, fino a che, e hanno pubblicato questo romanzo storico con Einaudi, che è uscito nel 99 o nel 2000, non mi ricordo, chiamato Q. La lettera Q, che è l'iniziale di Coelet, Q, scritto Q senza la U, e poi O, forse c'è un H, non mi ricordo, Oelet, che è praticamente è il nome ebraico del libro biblico dell'Ecclesiaste, che è un libro strambo, complicato, eccetera, molto, che ha dato luogo a dei commenti, eccetera. Questo è un romanzo storico ambientato nell'Europa della fine del metà alla fine del Cinquecento, e che parte dalle prime rivolte contadine religiose, ma in realtà sociali, degli anabattisti in alcune zone della Germania e dell'Olanda. Il protagonista è una persona che ha combattuto queste lotte all'inizio con il leader di questi, furono lotte, però ci furono rivoluzioni sociali vere e proprie, travestite o mescolate con delle lotte religiose, quindi erano movimenti radicali di rinnovamento religioso, ma insieme anche di rinnovamento sociale. Il principale esponente di queste cose era Thomas Münzer, il leader di questi anabattisti, quindi il protagonista di cui combatte insieme con Thomas Münzer nella battaglia in cui gli anabattisti vengono sconfitti dalle truppe imperiali, diciamo tedesche, una volta che è sconfitto, attraversa l'Europa e comincia una azione, chiamiamola clandestina, di sabotaggio, un po' da solo, un po' cercando rapporti con altre persone, eccetera, eccetera. E il suo antagonista è una persona che non incontra mai per tutto il libro, che è una specie di consigliere di un cardinale importante, il cardinale Carafa, quindi il romanzo, e che si chiama appunto Q, perché si firma Q come fosse Coelette, come fosse, diciamo, lo scrittore dell'Ecclesiaste, cioè questo fa riferimento a Q. Che noi conosciamo nel romanzo solo per una serie di lettere che lui manda, diciamo, loro hanno scritto le lettere, ci fanno conoscere le lettere che questo Q scrive al cardinale Carafa, cercando di individuare, come dire, proprio, insomma, tallonare e scoprire questa eventuale cospirazione münzeriana, cioè diciamo radicale, sociale, insomma, tutto sotto, e cercando di infiltrarla, quindi è tutto un gioco di, diciamo, finita la grande stagione, questa battaglia di Münzer degli inizi del 500, 1513, eccetera. Sono stati diversi tra la fine del 400 e i primi anni del 500, poi c'è stata la riforma di Lutero, quindi Lutero ha assorbito tutte queste tendenze che c'erano prima, però Lutero gli ha dato una forma religiosa, e Lutero non è mai stato, Lutero era un fedele, insomma, cittadino della Colonia Germania, infatti quando poi dopo anche, diciamo, in qualche maniera favoriti o eccitati o ispirati dalla riforma protestante, ci furono delle lotte contadine anche nei primi anni del Cinquecento, ma quando chiesero a Lutero, ma cosa dobbiamo fare di questi contadini che si stanno ribellando dicendo che sono protestanti, eccetera, Lutero disse sterminateli come cani, i contadini vanno sterminati come cani, quindi Lutero non era un rivoluzionario, era come invece furono Hus, Thomas Munzer e gli altri prima di lui, era un uomo del potere, anche lui soltanto che aveva un'altra concezione del potere, cioè quindi non, diciamo, non dà alcuno spazio alle rivendicazioni sociali all'interno della sua concezione religiosa, mentre altri l'avevano data. Torniamo invece a noi, a Q, eccetera. Perché scrivono questo romanzo? È l'ultima cosa che fanno firmata Luther Blissett, è il primo romanzo, però è anche l'ultima cosa che questo gruppo fa firmandosi Luther Blissett. Attraverso questo romanzo storico loro cercano di farci capire che, o suggeriscono insomma l'idea che ci sia una analogia tra il tardo Novecento europeo mondiale e il pieno Cinquecento europeo. Nel Cinquecento si stanno ponendo le condizioni per un cambiamento economico, sociale, eccetera, che è il capitalismo, che scoppierà, verrà fuori nel secolo seguente, insomma comincerà nel Seicento per poi di spiegarsi più o meno pienamente nel 700, ma già nel 600 ci sono i banchieri, ci sono, insomma, c'è una... E lui quindi ci fa vedere la preistoria di questo movimento e come in queste convulsioni, in queste ristrutturazioni, in questi cambiamenti dei rapporti fra le classi sociali, ci sia lo spazio per azioni di piccole minoranze, magari, che però abbiano una coscienza, che sappiano come minoranze di tutti e due i tipi, certo, sia di tipo rivoluzionario, l'ex combattente anabattista münzeriano che poi va a Venezia, è un romanzo abbastanza lungo, è un romanzo che ovviamente mescola quindi personaggi storici e personaggi di circofinzione, eventi storici ed eventi di circofinzione, ma lo fa per suggerire una analogia con il presente. Allora, detto in altri termini, insomma, i Luther Blissett si considerano in qualche maniera una specie di anabattisti contemporanei, cioè dice guardate noi che cosa abbiamo fatto, eccetera, perché le cose che hanno fatto negli anni precedenti alla stesura di questo libro, secondo loro, potrebbero essere e potrebbero dare vita a una serie di pratiche, a una serie di questioni. Va bene, dopodiché appunto queste che sono le quattro persone rimaste dentro, insomma, poi erano quelli che sino dall'inizio erano stati le vere anime di questo progetto, insomma. Dopo Q decidono di dedicarsi a una carriera invece letteraria, sempre da loro concepita come più o meno collegata con un pensiero radicale, eccetera, eccetera, cambiano nome, cioè a questo punto non fanno più della segretezza dei loro nomi, però mantengono sempre il nome collettivo e si chiamano Guming. Guming è una parola cinese che vuol dire senza nome e si autonominano come Guming 1, Guming 2, Guming 3, Guming 4 in ordine alfabetico. Siccome Roberto Buic ha il cognome che comincia per B, lui è Guming 1, ma questo non vuol dire che sia il... guarda un po', gli va bene, quindi quello dopo è Cattabriga, gli altri due non mi ricordo. Poi arriva Guming 5, che è invece uno scrittore sempre bolognese che ha esordito con il suo nome, si chiama Riccardo Pedrini, ha pubblicato un bel romanzo dalla fine degli anni, no, primi anni 2000, che si chiama Libera Bacuora, un romanzo di fantapolitica ambientato in Italia, in cui i maoisti hanno preso il potere e tengono prigioniero Tony Negri, lo tengono come consigliere, ma non lo fanno andare in giro, e c'è una questione di guerra internazionale, comunque non è brutto. E questo Pedrini raggiunge il gruppo e quindi da quel momento diventa Guming 5. Guming ha una cosa abbastanza elastica, alcuni libri li fanno insieme, li firmano Guming, sono scritti a 5, prima a 4, poi a 5, uno di questi a 54, poi ce n'è altri, invece altri li fanno singolarmente, quindi li firmano Guming 1, Guming 2, Guming 3, Guming 4, in genere Guming i più prolifici sono volume 1, volume 2 e volume 5. Quelli che l'hanno pubblicato, credo che volume 3 e volume 4 non avevano pubblicato mai nulla con il loro, però sono volume 4 loro. Va bene, allora questa è in breve la storia di, perché però è una storia interessante, perché insomma, sia pure per un breve periodo, tutte le persone che erano, a questa prima fase, per esempio, nella prima fase del progetto, quando si chiamava ancora Luther Blissett, ci sono state molte collaborazioni, grandi, piccole, eccetera. Uno l'ho fatta anch'io, insomma, infatti in questo libro si trova un accenno, cioè c'è un testo che solo che ho sballato completamente la cronologia come lo l'avevano pensata, quindi era, li ho retrodatati praticamente, ho scritto un testo di Luther Blissett del 75, mentre invece loro Blissett non lo cominciava nel 79, cioè nella loro cosa, però loro non gli frega nulla. Questa cosa andava in di pari passo con una serie di movimenti culturali che preesistevano già, e che erano più o meno collegati con la storia, con questa controstoria dei movimenti d'avanguardia artistica, e in cui bisogna introdurre a questo punto un nome, una esperienza più interna alla storia dell'arte, evidentemente, che non alla cosa politica, che però ha avuto un rapporto con questa, che è l'esperienza di Fluxus. Fluxus è una ripresa, è una mescolanza di idee situazioniste e di pratiche artistiche desunte dalle avanguardie dei primi del Novecento, che dei gruppi di artisti hanno messo in pratica dai tardi anni 50 in poi, dai tardi anni 50 del Novecento. Sia Fluxus che i situazionisti, eccetera, eccetera, sono all'origine di una serie di esperienze, di cui alcune le abbiamo dette, per esempio gli hippies, altre sono i provos olandesi, cioè provocatore. I provos olandesi, che sono anche essi una specie di movimento hippie olandese della metà degli anni 60, la Comune 1 tedesca e le White Panthers. Le White Panthers erano le pantere bianche fatte per analogia con le pantere nere, eccetera, eccetera. Molte di queste esperienze, quindi degli anni 60, anni 50-60 del Novecento, confluiscono in una singolare corrente artistica o pratica o insieme di pratiche artistiche che ha sempre creato dei grossi problemi agli storici dell'arte, che è la mail art. Allora, in questo libro di Stuart Home, che purtroppo non trovo di più, che si chiama Assalto alla cultura, sottotitolo Correnti utopiche dal lettrismo a class war. Il lettrismo, come ti ho detto, è l'anticamera del situazionismo, quindi metà del libro sui situazionisti, poi però l'altra è su. Allora, che cos'era la mail art? La mail art, gruppi di artisti, gruppi o singoli artisti, eccetera, americani a un certo punto, come hanno cominciato, ma poi anche europei, insomma, in tutto il mondo, come artisti non molto conosciuti, eccetera, un po' uno potrebbe, il maligno potrebbe dire artisti che non avevano un totale successo sul mercato, cominciano a fare questo genere di cose, cioè si spediscono l'uno con l'altro delle cartoline, si mandano delle lettere con dei disegnini, delle poesie visive, delle poesie, non le parole messe disposte sul foglio in maniera grafica un po' inedita, oggettini, cioè cominciano a fare una pratica cioè, dal punto di vista tecnico è prevalentemente grafica, cioè o grafica o insomma disegnini o cose così, però la cosa importante è che ce le scambiano e diciamo concepiscono il contenuto artistico di questa loro azione più che nell'oggetto che o negli oggetti, nei prodotti che creano, nel fatto di essersi messi in relazione, cioè nella costituzione di una rete. Se ci pensi un po', capisci bene che sono dei precursori in un'epoca in cui non c'era internet, non c'era ancora, però loro, usando le tecnologie dell'epoca, cioè la posta normale, no? Avevano un piede dentro e un piede fuori Fluxus, alcuni erano di Fluxus, altri erano... Molti dei messaggi, diciamo dei contenuti dell'opera, erano contenuti dissacratori nei confronti delle ideologie ufficiali, eccetera, però non c'erano, cioè non erano tutti, come dire, dei coscienti rivoluzionari, eccetera, però facevano, misero in atto una pratica che fu molto interessante, insomma. In Italia gli esponenti principali di questa, della mail art furono, principali, è difficile, ce ne sono stati tanti, però insomma i personaggi che più o meno a quel punto emersero meglio furono uno che purtroppo è morto, morto quanti anni fa? Morto anche abbastanza giovane, era poco più di 50 anni, di un tumore, accidenti, c'è un buco in testa, che adesso lo... adesso si chiama l'archivio, se è scritto qua. Che ha scritto un libro a cui ho collaborato anch'io, ma non perché ci siamo conosciuti, è quello che ha fondato le edizioni AAA. Come è possibile contattare? Non è collegato? Paolo? Devi mettere una password? No, me l'aveva già messa a posto tutto, era già attivo. Allora. Quando c'ho il buco in testa è proprio... Tanto io cerco qua. Perché qua i nomi non li mette, accidenti, quindi è chiaro non che... Non c'è qua. No. Io poi ho messo tutte le robe dopo, non... poi ho messo quelle a cui quelle più attuali nel 98, nel 2008-2009. No, alcuni nomi ci sono, vedi? Quella che... Signor Guglielmi. Si contatti ti dà, no? No. Hanno messo proprio dietro i libri di questo, quindi non... E quindi non lo possiamo trovare. Se non viene fuori dalla mia memoria. Ce n'è un Bruno. No, ma è collegato. Sì, ho capito. Allora, guarda, in genere, sai cosa devi fare? Adesso però con Macintosh non ti so dire. A volte c'è da aspettare 5 minuti. No, aspetta, vai a vedere nelle preferenze di com'è strumenti, com'è, no? Allora, avanzate, vedi, determinare come si collega, ok, è proprio uguale, forse perché gli hai messo un, guarda, impostazioni, c'è un proxy qua? Non so cosa sia. Allora, probabilmente nessun proxy. I proxy sono i server che indirizzano, dei server locali che indirizzano. Ma adesso provo a vedere se va. Chiudi tutto. Che bisogna ributtare il sito, perché bisogna ricaricare il sito, perché a volte c'è poca banda. Dice nessun proxy, va bene. Ok, lo tengo. Tienilo così. Se no fai un salto da lui e vedi se... C'hai un po' di batteria? Sì. Dai, fai un salto tu lì e vedi se riesci a...